Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Settimana numero 17. Settimana numero 17 di Eclettica. Questa è la 14ª stagione sulle frequenze di Rock FM. L'ultima settimana di febbraio da passare assieme a Giulio Caperdoni ed Eclettica. Le sue scelte musicali, i suoi incipiti letterari e i suoi film. Al plurale questa settimana, perché abbiamo un film da finire e un nuovo film da iniziare. Ad accorgersi che due carrozze, gentilizia l'una, e trainata da due cavalli neri, più vasta ed alta, tanto da ricordare un po' la diligenza, la seconda, avanzavano pacatamente per la strada, lungo i fossi, probabilmente dirette al buon corsiero, fu uno staffiere della locanda stessa. Aveva appena liberato un morello dalle briglie, che era allora giunto spossato alla locanda portando un ufficiale doganiere, e già stava per condurre la bestia nella stalla, quando gli parve di avvertire un tintinnio di campanelli in lontananza. Lo scalpitio, seppure pacato e stanco della bestia sopra le pietre erbose del cortile, gli impedì sul momento di accertarsene, e già stava per dimenticarsi del tutto degli squilli portati dalla prima aria serale fino a lui, quando questi gli giunsero di nuovo, se non più nitidi e precisi, in modo tale che non poté più dubitarne. Questo era l'incipit di All'insegna del buon corsiero, di Silvio D'Arzo. unless you have an epiphany, you will spend the remainder of your days alone. Epiphany. Woo! Bananas are an excellent source of potassium. Americans will never embrace soccer. More than two shakes and it's playing with yourself? Here on a reel in a theater, a real occurrence. You're in a box with the top popped open, like the soldiers in a Trojan. Unexpected, one direction, can't go both ways, that's what the Pope say. Every note played in your soundtrack is based around fact, how you get down and act. The end of the cinema, into the darkness, the usher escorts you to your fortune, morphing into the final solution. Might be gruesome, dependent on your contribution. Your vision gets clear and translucent, witnessing your own video revolution. With my issues and whatever script I choose, sound is magnified, amplified, forcing the subject, discovering a new adjustment, something for my understanding, and might be expanded depending on the programming. I spot my ways of abandon, witnessing my own parade on the planet. L'epica di quest'oggi si è aperta con Port O'Brien, interessante nuovo gruppo che proviene dalla California, da Oakland per la precisione, lì che fanno base dopo aver girovagato per un po'. Port O'Brien che ci siamo ascoltati con I Woke Up Today, per poi proseguire con una delle opere che sono derivate dall'uscita di In Rainbows dei Radiohead. Alcune di queste opere trovano spazio all'interno di Eclettica e una di queste è quella del DJ che di nome fa Ampleve, che nel brano in questione, aiutato dalla voce di Del, rimette mano rimescolando videotapes, per lasciare ora lo spazio ad un'opera che ci eravamo ascoltati qualche mese fa quando era uscita e che oggi per qualche strano motivo ho voluto riprendere, ovvero sia Dust Galaxy, il gruppo di una metà dei due Thievery Corporation, ovvero sia Rob Garza, che esce come Thievery Corporation per 18th Street Lounge Music con il suo album omonimo Dust Galaxy, quindi, a cui collaborano tanti artisti diversi. Io ho preso un brano in cui collaborano due Primal Scream, ovvero sia Martin Duffy e Darren Mooney, brano che si intitola Sun in Your Head. All'improvviso, dal sentiero dei pascoli, ma ancora molto lontano, arrivò l'abbaiare di un cane. Tutti alzammo la testa, e poi di due o di tre cani, e poi il rumore dei campanacci di bronzo. Chini attorno al saccone di foglie e al lume della candela c'eravamo io, due o tre donne di casa e più in là qualche vecchia del borgo. Ma hai assistito ad una lezione di anatomia? Bene. La stessa cosa per noi, in un certo senso. Dentro il cerchio rossastro del moccolo, tutto quello che si poteva vedere erano le nostre sei facce, attaccate una all'altra come davanti a un presepio, e quel saccone di foglie nel mezzo, e un pezzo di muro annerito dal fumo, e una trave annerita anche di più. Tutto il resto era buio. «Sentito niente voi donne?» dissi io alzandomi subito in piedi. La più vecchia prese il moccolo in mano e lentamente andò ad aprire la finestra. Per un minuto fummo tutti nel buio. Questo era l'incipit di Casa d'altri, di Silvio D'Arzo. But nobody's watching, see, nobody came. So please leave the spotlight, it's not of your place anymore. And all of a sudden it's clear that I'm glad I'm out of that. Cause nights we're restorers from days where the logic's prevail. And once again the words that could distract me from where I was directed have left. Day, but I'm sure we can put all that behind us. That's my whipping arm! Oh, why does everything I whip leave me? Erano questi i canadesi Holy Fuck che ci siamo ascoltati con Lovely Allen, prima ancora gli italiani Fige, era loro, Downing Disaster. Questo invece è Giulio Caperdoni che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, che è l'indirizzo a cui scrivere nel caso abbiate qualcosa che voi ritenete interessante da dire, da raccontare e magari da sentir, poi leggere in onda, ma anche per iscriversi, sempre lo stesso indirizzo giulio@radiorockfm.com, per iscriversi alla lista nera di Eclettica, che vi permette, nel caso ne siate parte, di ricevere settimana dopo settimana la playlist della trasmissione, ovvero sia l'elenco dei film, dei libri e delle canzoni che compongono Eclettica. Canzoni come quella dei School of Language, un progetto inglese che, storia comune a tanti altri, dopo qualche anno di esistenza arriva finalmente al disco d'esordio. Dietro gli School of Language in pratica si nasconde David Brewis, e David Brewis che esordisce con Memphis Industries in Inghilterra e in Irlanda, e con Thrill Jockey invece in America e nel resto d'Europa, esordisce con un album che è uscito il 4 di febbraio intitolato Sea from Shore, dal quale vado ad estrarre Extended Holiday. This is where I kiss a cool.